ma era già stata doppiata da me, quindi io ho questi buoni. Quando ho preso c'ho questi buoni, il problema è che poi bisogna vedere il riscontro. Il riscontro già c'è. vedi tu. È una bella radio quella, bella come l'altra, come tutte quelle che non so se tu le hai viste, ma sono tutte belle, una più bella dell'altra. Ok, quello c'è anche le bande laterali? Sì, USB e USB, 40 per banda. 40 per banda, sì, va benissimo. Vedi te, fai te, prendi la camomilla con i biscotti, cambio. Oh, Claudio, faccia un attimino, 25 in USB, vai. Ok, un attimino che mi sposto, Gianni? Ok, dai, prove tecniche di trasmissione fatte, va bene. Eia, sì. Ma questo che modulometro è? Oh. Eia, modulometro. Vattene a... Benissimo, radio perfetta, microfono. Che microfono stai usando, il suo? L'originale, nuovo. È lì, ma gli attacchi sempre a 4 sono? Non penso, questo è lo spino a salsiccia. Ah, vabbè, lì bisogna abbinarci magari quell'altro, un altro tipo di microfono per vedere se spinge un po' di più. Comunque la radio è bella pulita, chiara, già va bene. Vabbè, io vado a mangiare, signori, ci sentiamo più tardi. Ciao a tutti, QRT da questo momento, e se no qua è un casino, dai, che devo preparare. Ci sentiamo dopo, salutami anche il tuo amico, ciao Gianni, Luca, chiunque fosse qua in ascolto, ciao. Sì, buonasera, ciao. Ciao Cla, buona carica, là. Ciao a tutti, ciao, sentiamo dopo. Ciao, Cla, dopo. Gianni è sceso giù un attimino a prendere il microfono sono amplificato, così lo vuole provare qua a vedere cosa succede, vediamo se i contatti sono uguali, sembrerebbe di sì. Ma perché qual è? Quello a 6 punte a spinotto? Esatto, quello rotondo che c'ha il connettore DIN, quello si chiama connettore DIN, non DIN DON, è il connettore solo DIN, senza il DON. Pagappa. Aspetta, andrà a prenderlo a tra poco. Ehi, sono qua Marco, dai, chiamami quando magari lo proviamo, dai. Sì, è già arrivato, aspetta, è sceso come un furetto. È già arrivato, aspetta che lo ritacchiamo. Ehi, Ah no. Davvero. Oi, ciao Anto, ti avevo sentito. Ma c'è da poco fa? Ciao Carlo, buonasera. No, non ti ho sentito. Vai Gianni. 1, 2, 3, 3. Mi sembra in macchina. Vabbè, alla grande, c'hai troppo eco però, basta appena. Prova così, là senza eco. Ehi, alla grande, questa volta c'hai il culo. Luca. Chiudere tutto, c'è una barattolosa, stava appena. Vai così. Perfetto, come lo tieni in macchina, così non tocca più. È bellissima la radio. Vai già. 1, 2, 3, 3. Ma già, proprio è appetitivo il microfono, una cosa si fa. E vabbè, a parte che lui fa parte, ci può dire che sui PTC non c'è problema. Di cose di spazio di contatto. Comunque, confermo, ha detto Claudio, ottima radio. Tu, ascolti. Io lo sento, non so neanche chi è. Vabbè Antonio, c'ha l'antenna piccola, dai. Gianni, meglio di così non ci può. Ottima radio, è come quando c'è in macchina, capito? Sembra praticamente il Galaxy con appena di... con l'eco attaccato. Cavaggia, andrà bene. Se tu poi magari mettete lontano. Bello è già, bello, non c'è, io non ho minimi termini. Bello, bella modulazione, bello, vabbè, segnale è bello perché sei vicino a me, comunque bello, bella radio, ottima presente, bella, bella. No, no, no, no, adesso il motto mio è non compro più niente, non vendo più niente. K, dai Gianni, ottimo lavoro, perfetto. Perfetto, perfetto, ottimo lavoro. Dai, vi saluto tutti che vado a cenare, che qua è già pronto. Ciao Antonio, Luca, Mario, Gianni and the company, e mi pare c'era anche Natalino. Ciao a tutti QRT, ci sentiamo più tardi, dai. Io qua sto andando con questo microfono da palmo che non serve, un accidente, non so se mi state ascoltando. Vabbè, ciao, passo e chiuso. Io che la sono fatto, volevo dire, sarà bellissima questa modulazione, calma, rilassata. Lo so, ma no, non mi piace, mi ascolto ma non mi piace, però purtroppo il baracchino è questo e bisogna modulare con questo. Non ne ho altri momentaneamente, va bene così. Quando passerà la bufera e tornerà al sole vuol dire rimetterò l'altro microfono che è più serio. Ciao a tutti, QRT per me, bye bye. Ciao, no, comunque a me piace questa modulazione, eh? Poi gli altri non lo so. Vai lui. Caffa. Comunque ti ha fatto una domanda Antonio, Claudio. Ti ha fatto una domanda e non ha risposto. Oh. Non ho sentito, cosa hai detto Antonio? No, ma cosa? Come l'ha fatto lui? Perché non compri più? È vero, certo, perché non compri più, non vendi più? Cosa è successo? Lunga storia, lunga storia. Mi hanno bruciato 300 euro, ecco perché non compro più, anzi non è che non compro più, me l'ho staccato del tutto, non lo voglio neanche più vedere. Come bruciati? Bruciati, sito fagiullo di gente disonesta e che praticamente ho fatto un traffico internazionale dove ho comprato 10 baracchini. Ho speso 300 euro e invece non esiste né i baracchini, la lettera di vettura è falsa e chi ci ha preso i soldi è un grandissimo farabutto. Ciao e sto andando a cenare. Va bene, mi sono fregato un altro momento. Sto a cena. Luca, ripeto. Te ne dico un'altra, non sono a me, a Gianni e a Salvatore, 200 a uno e 200 all'altro. Quindi un'operazione di tre persone, praticamente sono 4, 3, 7. Ma voi avete mandato questi soldi? Te lo spiego verticale, dimmi Marco. Aspetta che volevo vedere come voglio il gusto di provare io questo microfono, come c'è la mia voce. E Gianni adesso sta andando ad ascoltare come va, capito? Meglio della sua sicuramente, molto molto bella. Perché Gianni ha una voce più rocca, capito? Sì, la radio. È bella la tua con quel microfono, è bella quella di Gianni. Va bene, Gianni riprendi, fai girare che c'è altra gente e io mi allontano per andare a cenare. A dopo, ciao ciao. E io sto salendo Marco, dai. Riprendi, non so chi ci sia nemmeno. Luca, riprendi tu, dai. Ehi, Gianni ha ripreso, ma ci sono attimi da vedere. Bella veramente, forte, leggermente di ecco sotto, ma va benissimo. Proprio forte veramente come radio. E tu poi ormai sei uno specialista dell'eco. Siamo tra i tu, due Gianni siete, insomma che siamo anche io, che mi serve dell'eco. Ah, perciò, ottima per la truppa così, anche se non siamo l'eco va bene. Tappa Marco, ottimo, una bella modulazione, pulita, chiara, forte. Tutto K, no io non sto più usando la camera, ecco, dai. No, non fa, quando sarà si usa. Ehi, va bene, no, io ti ascolto benissimo, lui, vabbè, non so come si è iniziato, tu c'hai i microfoni, provi, fai, adesso va bene, la voce è bella, chiara, il segnale è inizio di Ciao Luca. Saluta Luca. Non ti sei niente se fa riserve in sordina, saluta. Vabbè, non è chiaro. Ciao Emilia. No, tu, lui come si chiama? No, si chiama, no? Luca si chiama? Cucca. Gappa gappa, meglio così. È vero, meglio così a tu. È vero. A me l'uomo la rivedi bella pippante che corre per la casa. E che rompe le scatole anche per la casa. Però è meglio così, quando rompe le scatole. Ciao a tutti, ciao anche a Claudio, se è ancora l'ascolto. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao. Tutti ciao, ti sei messo a Non mi chiedo, non ci ha aspettato per fare le prove, stavano andando a cena. Sono andato per avanti, le cellule si vedono e non apre. Dovremmo farcela così. Ok. Probabilmente anche gli altri, in effetti già sono le 8:30, 9:20. Settimana. Vabbè, intanto non lo sto andando a provare. Sto andando a provare qua. A me mi trovano solo il microfono normale con il Midland e basta, non c'è altro. Vabbè, perché quello non è omologato. No, non penso, manco quello di Roberto è omologato, nessuno di questi apparecchi qua era omologato. Questi qui hanno 40 per banda, no? Bisogna controllare nel sito e verificare, perché lì normalmente c'era il Mikey Game, capito? Dietro non abbiamo detto poi quel tagliandini che ci sono rivettati, cosa c'è scritto, perché dietro ci sono dei tagliandini. Potrebbe anche essere riconosciuto come apparato omologato, perché originalmente quello lì ha 40 canali. Scusa già, guarda che quello di Roberto è omologato, è 40 canali, cosa vuol dire 40 per banda? È 40 canali, quello di Roberto è 40 canali, che poi vada in SSB, non c'entra niente, è un patch, riconosciuto come Lafayette, come tutti i baracchini di vecchio stampo sono omologati. Io a Roberto gli ho fatto fare la richiesta, ha mandato tutto a Cagliari, adesso aspetta la risposta. Capito, lui ha inserito nella concessione anche quella radio, gli hanno accettata, cosa vuol dire 40 per ogni banda? Quello è un 40 canali, poi c'ha le bande laterali ma è sempre un 40 canali, non è che c'ha altri canali in più, no. Se c'ha altri canali in più, se c'ha tre bande, no, A, B, C, allora non è omologato, ma se è 40 canali con le bande laterali è omologato. Già, allora no, quello di Roberto è normale, è 40 canali con le bande laterali, basta, quindi per loro è 40 canali, non c'è nessuna modifica e va benissimo, capito? Proprio ieri mi pare mi ha detto che ha fatto la cosa per inserirlo nella concessione e non ha avuto problemi, ha chiamato lui Cagliari, li hanno fatto fare direttamente da Cagliari, quindi non ci sono problemi. Vabbè. D'accordo, avanti Marco. Ma anche quello è una scelta canaria, perché io avevo sito nel museo della radio, dove ci sono tutte le radio fino ad oggi, di tutte le radio che sono state fatte, tutte, insomma, c'è una buona parte, ti ricordo che ti avevo fatto vedere anche tutte le tecniche, quello lì, 40 canali. C'era il kit aggiuntivo che uno comprava e lo poteva trasformare, attivare o no con 120 canali, ma è un kit aggiuntivo, se no uno lo disattiva e ritorna a 40 canali, perché è 40 canali l'apparato, 40 canali AM, 40 canali e poi ci voglio. Se ti ricordi entrava nel 1975, fino a quell'anno omologati non ce n'erano, quindi è così, va bene. D'accordo, già, quindi non c'è nessun problema. A noi del kit aggiuntivo non ne frega niente a nessuno. Quello è un canale, un 40 canali con le bande laterali, quindi va bene così. Non è come il Galaxy che ha A, B, C e D e C e balle e polvere. Quello è 40 canali, quindi non ci sono problemi già. Benissimo, proprio così, come hai detto tu, mentre quelli là sono eliminati a priori, perché noi siamo già con 220, 180, quello che i vari tipi di palazzi, tutte le marche, poi la parte è sempre lo stesso. Quelli erano già fuori da qualsiasi tipo. Io sono bisognerebbe informarceli, fare il richiesto acciaio, ricomunicare il numero di matricola, perché c'è il numero di matricola, e tutto mi sta parato, avendo 40 canali, trasmettendo con 4,5 watt, bisogna guardare le caratteristiche tecniche e scaricarle da internet, e fare la richiesta dell'inserimento, essendo l'apparato che deve usare l'anno, eccetera, eccetera, dopo che ha fatto la ricerca su internet, perché vuole che possa essere inserito fra gli apparati che si detiene a casa. Marco, dove sei? Poi io sono a Fonte ancora. Non anche io, ma ho rallentato perché ho visto mio figlio. Ah, ecco, ti sei davanti a me. Ma adesso quella radio in macchina mica va bene, quel microfono è troppo basso. Vabbè, l'ho messo forticamente e poi rimetto l'altro, dai. Rimetto l'altro dopo. Ciao Scorpion, ci sentiamo. Sta tranquillo che l'ho tratto con tutti i... Sì, non ti preoccupare. Cosa già? No, a Marco stavo dicendo, l'apparato che mi ha dato. Non l'ho sentito già. Ho detto di star tranquillo che l'ho tratto con tutti i criteri. No, soprattutto, devo andare in trasmissione soltanto e no. Perché vi ricordo sempre, è rimasta storica una volta, una radio nuova, nella scatola, acquistata un portatile. Acquistato, provato a casa, così eccetera, poi rimasto nella scatola perché l'avevo comprato come apparato di emergenza, se l'avevo visto con la macchina di qualcuno. Un amico che si stava appassionando, dice vedi, ho fatto così, vale, ti faccio un titolo, adesso non so, mi ricordo, fa un conto tipo 50.000 lire, da quello che avevo parlato e glielo ho dato. Ma la roba della favola, l'ho attaccata sua, l'ho attaccata a un'antenna così che si è inventato, a quello che si è inventato. Claudio, ci sei ancora? Cos'è già? No, vedi, ci sei ancora. No, me l'ha prestata, adesso vediamo come va, se riesco soprattutto a convincere mia moglie che si sta un po' tradita dal fatto che non gli ho detto dell'apparato che stavo comprando, quindi dice sono stata tradita due volte, da quel disgraziato e anche da te che non mi hai detto. Non interessa a nessuno quello che devi fare tu, non devi rendere conto a nessuno. Portalo a casa, attaccalo e soprattutto dille la pura verità, perché no, insomma, no, non va bene, capito? E lo dice e basta, la radio è bella, è nuova, è di un po' ricco, ciccia, vivo, va. Poi quello che fai lo vedi tu, non mi interessa nessuno. Niente, io nulla, mi stavo controllando poco fa se c'era qualche mail, niente da fare. No, quello là ha cambiato numero. Ho provato oggi e mi dà numero inesistente adesso, capito? Quindi quel signore che l'ho chiamato mi ha detto infatti che andava alla team lì nella sua città e ci faceva cambiare il numero perché non voleva avere rogne. E infatti oggi ho chiamato, numero inesistente, già tolto. Claudio, basta che non sia gratuito un'organizzazione che ti ha risposto pensando che stava chiamando qualcuno per comprarsi qualche altra cosa. E poi abbia fatto questa farsa qua, era uno di loro magari. Ecco già vesica già. Purtroppo dietro il telefono certe cose non si vedono e quindi cosa vesica. Ma guarda, gli aspettiamo dopo che forse si sono loro, mamma mia, adesso la pantera mi fanno vedere. Vabbè, la verità di leggere, dai. Poi chiamami al limite, ci spostiamo e facciamo qualche prova, dai. Ciao. Claudio, Questo strumento va benissimo, lascia perdere le contatto con PS2000, con le 920, con tutte le mie radio, praticamente la ricezione è perfetta. Tu avevi quell'altro con lo strumento digitale, mi pare, o cos'era, quindi lascia perdere, che quella è una cosa più seria. A tutti i dini, i segnali sono quelli. Noto che sei leggermente più basso, evidentemente la potenza quella eroga 4 watt e va più che bene. No, eroga da 5 per 6, perché sto guardando qua il parametro, io c'ho quello, l'HP1000 ce l'ho fatta, e mi dà 5 watt. Perfetto, sì, 9,20 con picchi positivi, perfetto, la modulazione è chiarissima, non lo duca più perché meglio di così credo che non si possa uscire. A te Marco. No, ma sicuramente deve girare, perché due giri deve girare ancora, lascialo stare così già, non lo toccare, non ti devi pure, lascia, più di così non puoi andare, è anche un pochino esagerata come amplificazione. Un pochino, ma cosa che ho già visto va alla grande, e poi andando a presto stanotte per recuperare un po'. Gappa gappa, vai già. No, Gianni, non l'ho ripreso perché c'ha il cacciavite e sta agitando il cuzzetto. No, non ho ripreso perché sto cambiando i microfoni, e si sente. E si sente, guarda, lascia fare, va molto meglio l'altro. Questo qua va meglio? No, l'altro, con l'amplificato. Questo qua è normalissimo, là, è un microfono... Che poi qua possono fare anche l'altro che è in macchina... quell'altro che ti ha fatto vedere l'altro giorno. Ah, è quello interessante da provare, perché quei microfoni lì vanno ben bene, anche quelli che sono io. Bisognerebbe provarlo, magari si adatta bene come capsula. Questa è una versione 5 normale, no, la microfono normale, chiara la tua voce come di persona. Quell'altro invece ti rilevo amplificata. Vediamo se riesco a convincere la signora, ma... Sì, dai, può essere, no? Adesso gioca e ci vediamo. Ciao, a dopo, vado perché se no il pane si risulta troppo con l'acqua e si sfalda. Gappa. Ciao Marco, ci sentiamo dopo. Ah, io vai affronta questo box, Gianni, è Biglio... Che con quello hai terminato, io basta, finito, trick e track e boom, aiù. Bello, molto bello. Non belle con le radio. Ci assomiglia al coso, no? Al Royce. Ehi, ma è bello, c'è le cose lucide, mi piace, poi è proprio tenuto bene. Io sono pignolo e questa qui nella mia pignoleria se ne frega. Gappa, se vedi l'inuite come l'ho fatto, ho tolto tutte le manopole, tutte lavate, pulite, luci o fiammate, coperti, interno, frontale, tutto. Le radio vanno tenute così, no? Non c'è niente da fare, capito? Aio, cerca di convincerla e tienila con la radio, che è una bella radio. Vediamola adesso, se si può. Vediamo che ci riesca. Cosa hai detto? Te l'aveva prestato Marco? Cosa? Cosa gli hai detto adesso? Te l'aveva prestato Marco? Sì, io. Io, già vuoi che dica, cerca di lavorarci, insomma, non la ferra, se ti piace, è una bella radio, funziona benissimo. Quell'altro microfono è troppo bella la modulazione, va bene, molto meglio della macchina, molto più squillante, più bella, mi piace. Sì, ma hai risaputo che quel microfono lì va bene, eh? Va molto meglio dell'MB5 più 4, eh? Alla grande. Secondo la radio che lo inserisci, sì, va benissimo, capito? Va molto molto bene. Poi lo tieni in basso, non molto alto, va alla grande, bella modulazione. Lo so, per convincere la signora. Io vai, approfittami oggi che la festa è la donna, lascia la radio, vai. Gappa. Ora. Già esce bene così. Sì, è pulitissima la radio, 5 è perfetta, normale, senza nessun problema. E poi te ne accorgi al modulometro, capito? Io quando uso l'Inuit, sto usando il 3006. Quando uso l'Inuit praticamente te ne accorgi, no? Già lo sai, la modulazione si accende, ti dà la percentuale di modulazione e anche col microfono normale la modulazione è sempre al 100%. È un mobile, capisci questa radio, è un mobile, mi piace per quello. Le radio sono così, tu mi hai visto quella che ho preso io, non so se Marco te l'ha detto, è la fine del mondo, ho capito, qualità prezzo è un mobiletto, molto molto bella, è molto, quella mi ha compensato tutte le fottiture che ho preso qua, veramente. Se riesco a vendere il telefono a qualcuno, almeno 100 euro, perché poi così almeno per 100 euro ce la convinco. Ah, beh, tu dille 100 euro, poi gli altri in base conti. No. Eia, dai così. Se ne vuole la conoscere, una volpina. Ma no, me ne faccio ricco 100 e 100, diciamo, va bene. Ricco 500 e per lei va bene 500, no? Non me ne conta di niente, capito? Vabbè, se lei è così, cerca di lavorarci, lavoraci. Che pagato. Oh, vabbè, adesso vado a mangiare, da qui ci penso, c'ho mal di testa da crepare qua. Deve essere roba di artrosi cervicali perché mi prende mal di testa e dietro la nuca. Quello è anche freddo già. E anche il freddo durante il QRL, durante tutto, capito, come stiamo in macchina, a destra, a sinistra, qui e là, capito? Tutto lì. Vabbè, d'accordo, sono qua in Querix. Sentiamo all'inizio, mi guardo un po' di partita, intanto il Milan sta vincendo 2-0. Ho preso un bel di acqua oggi, capito cos'è? Acqua e umidità hai preso sicuramente. E allora, acqua e umidità tutto andare. Gappa gappa. Vabbè già, sentiamo tra un pochino, dai. Già sono qua in quel ric. Ciao. Cerca di convincere. Ciao, ciao. Gappa del Rosmetro, ci sentiamo tra un attimino, quello. Scusa. Lo so. Bellina pure, è bella, a me mi piace. E ti piace così, ecco. Ma già c'è un'acqua? No, guarda adesso, là. Guarda adesso c'è. Stavo facendo tutto il collegamento, fatto la stazione. E che non voglio di nato, io te l'avevo mandata. Ho messo dei filtrini sotto quell'affare che ha messo, come si chiama, Marco. Dei filtrini per non toccare con la radio, per non graffiarla, perché avevo perso quelle rasse, ma ne sono usciti, non so dove cavolo sono andate a finire. E ci ho messo dei filtrini, poi li ho messo, non ho fatto letto, ma diciamo uno straccio bianco sopra, e lì ci ho messo il Midland, che è leggerissimo, tanto non li va di nulla, e l'MB più 5, ma la seconda va bene. Ehi già, quanto ne ho fatto io di piramidi, ti auguro di arrivare a questo gioco di carruzzo che ancora non ho finito, ancora ce n'è qua da fare, per carità. Vabbè, comunque già va bene, non c'è problema. Tu pensa a convincere quello che devi fare, poi te la metti in una posizione e la lasci stare lì. E mi buchi tutto, cosa fai piramidi? Quelle sono belle quando sono a fianco, una all'altra, finito, boom, basta, cosa? Non fa. Va boom, a mangiare stai andando. Eia. Vado a mangiare adesso. Vai, già sono qua. Caffa. Comunque questa qua spinge la radio. Ah? Il microfono con questa radio spinge. Quale? L'MB. Ma adesso stai usando l'MB più 4 con quale radio? Poi più 5 con Midland. Perché arriva a attacco, se l'avrei provato anche qua, io l'avrei voluto mettere qua questo. Vabbè, ma come fai a fare le connessioni, questi incasini tutto, lì c'è da rifare tutto il coso. Sì, va bene quella, il Midland con l'MB più 5 va benissimo, è più forte col Typhoon, ma va bene anche con quello. Vabbè, il Typhoon come se non esistesse più per me, l'ho già diseredato. Ehi, vabbè, una bella radio, fa finta che non mi abbandi laterale, ciccia, cosa di una fottuta. Però per l'AM va benissimo quello, AM, FM va bene. Con FM, Luca, lo tocca c'è male anche in FM, figurati. Ma chi l'ha detto? Se ti hai fatto le prove con me, cosa c'è male in FM, che la dico? Luca l'ha detto, che sta facendo male, no? No, ma non esiste. Io ti ascolto col 440 in FM, sì, perfettamente. Perfetto, più perfetto di così non si può. Luca, guarda. Ci siamo dopo. Eia. Etriche ballacche. Ah? Etriche ballacche. Si comprende più nulla, mia. Bella fatta, Ma. Come va il tuo microfono normale? Bene. Hai visto i bei microfoni? Non ne ho poco microfoni questi. Beh, adesso accendo il computer, vediamo un po', va. Vabbè, cosa c'è? Tricche e ballacche. Vediamo qua. Mettiamo col telefonino. Ecco qua. Mo usciamo da questo programma perché... Tricche ballacche, chiudi, tasse, chiudi e chiudi, ecco qua. Allora, buonasera. Salute. Ciao Cla, saluto una caro amico, chi c'è Cla? C'è Luca, Luca Flipp, già mi è andato a mangiare e basta, io e tu. E allora? Allora, sto prendendo quel microfono normale, come mi state ascoltando, lo schifo. Luca, bene, benissimo, chiaro, e io non sto facendo quel microfono normale. Quel microfono da tavola mi ha dato tu, sto provando, quello che hai uso. così non si vuole. Va benissimo, capito? Cava cava, scappa di positivo, andar bene a meta. Signale com'è? Passo? Mi segnale 9.25. Scappa. Sto pilotando il 548 Six con quel microfono. Con quel microfono normale da tavolo, visto che già va bene comunque là. È più che soddisfacente la radio, non c'è nessun problema. Capito? È più che soddisfacente, come la mia, normale, pulita. Marco, se volevo dire, qua c'è quella, praticamente con l'interruttore di dietro c'è scritto EFT e MOD. No, quello lì è per non farlo uscire. E quale posizione lo devo mettere? Che posizione ce l'hai adesso? EFT. In su deve rimanere. Cappa, guarda questo passaggio, adesso provo a spostare. Così, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Va bene, non cambia niente. Cappa. Già va bene, dai, ok, cappa, cava, cava di positivo. Allora. Andar bene meda. E se conferma. Allora, andati ciò. E Tore non c'è andato. Oh, Tore a casa sua, è rimasto lì e praticamente non c'è andato. Cappa, cappa. Non è tempo da nessuna parte. Io mi fa un po'. Mi si goffo d'ora, adesso sto guardando un po' il computer se c'è qualcosa da vedere, da verificare. E poi mi ci gorco. Cava cava. A casa non ci voleva andare, poi l'ha convinta Sandra e è andata, capito? E Maria che l'avevo preso perché mi ha detto ci mangiavamo la pizza e poi rientrava. Lo so, però in questo momento non ce ne voglio andare, ce l'ho fatta. A casa, lui ha scaricato. A casa da sera mi sono coricato e me ne sono alzato per 9.07. Mi voglio che eri stanco. Stanco. Stanco e cazzato sono qua. Ui, ui. Io ero lì. Ognuno c'ha i suoi, fra, ognuno c'ha i suoi, capito? Ognuno c'ha i suoi. Chi non ne ha vuol dire che è nato vincente, ognuno c'ha i problemi suoi. Io sono dal 13 febbraio a casa, ho fatto il gonfio, con questa malattia allucinante, l'altre contro l'altre, soldi, sto spendendo a destra, a sinistra, medicine, culture, e chi ne ha più ne metta? Io, un casino, ecco, per carità. Questa sera è venuto quello del telone per controllare quel tendone che c'ho in veranda praticamente, non l'ha neanche smontata, ha controllato e guarda qua ci sono i granaggi mangiati, qua e là, trippa e trappa, bisogna vedere se si trova e così, e colana, ma praticamente conviene cambiarlo, qua e là, lo famo preventivo, ho fatto preventivo di 900 euro. Ehi, costa 200 euro nuova, cosa? Va. E adesso lui mi ha fatto preventivo, però mica io mi fermo quei preventivo lì. Adesso provo a chiedere in giro che prezzo mi fanno, capito? Non è che mi fermo per quel tanto lì, no, qua, eh. Ah, lui sì. Secondo me deve andare un po' come due ronfio, no? Ma da come l'ho visto, insomma, qua e là, ma vediamo, sai. Poi non l'ha neanche controllato. Cioè, io ti chiamo a controllare un telone, ti dico il problema che c'ha e tu me ne dici l'ingranaggio. Come fai a sapere che l'ingranaggio senza smontare neanche il pezzo che c'è internamente? Cioè, Bisogna dica. Bisogna farlo controllare da gente competente. E io sai quale sono io. Quando fa bello lo prendo, non lo smonto giù, le tolgo l'ingranaggio, per non posso il problema l'ingranaggio, vado a Vicenzo, da quell'amico che tu sei lì a Preganizza e me lo rifaccio rifare l'ingranaggio. Ma infatti, è così. Flipper, lo senti a Franco, sì. E che? Non ho copiato di sì, comunque. Buonasera. Boh, cazzo non ti capisco. Che arrivando a livello proprio terra a terra, Santa Lucia Radio 3 qua. E adesso mi ascolti? Adesso sei tu. Va bene, buonanotte. Buonanotte, Galles sei andato. Ma senza se mangiare, quindi mi devo rilassare per una mattina. Cavoli così schifo. Va bene, adesso vado un attimino a fumare, io prendiamo la sigaretta, un attimino, vai. Bravo, ciao, ciao a tutti, riprendi. Ciao Tino, ci sentiamo. Ok, avanti Luca. Almeno mi abbasso ai saluti. No, vabbè, guarda, mi sarebbe piaciuto trattenere, però devo preparare ancora una cosa per domani e sono fatto, non ho voglia di... anche perché sono addormentato una figlia, non ho niente di più. Quindi ne approfitto a portarti e ci sentiamo domani, cioè. Ciao, alle prossimine. Va bene. Vabbè, niente, non devo dire niente. Non devo aggiungere niente. Ho già aggiunto troppo. Due sono già state segnalate nella zona tua. Aspetta, ho detto. Oh, non so cosa dire, non dico più niente, ci sono io. Ma mi sto posso obbligare a mezz'ora per la scatola. Allora, stavo facendo le misurazioni, Tino. Quello che ti ho detto là non l'hai capito. Tu usi il microfono normale e puoi poggiare anche la stessa radio. Poi fai come ti piace, sei grande vaccinato, io non ho niente da dire più a nessuno. Ti ho già detto troppo. Basta così. Ieri qualcuno a Udine ce l'aveva sotto casa, poi a un buon intenditore poche parole. Figlia, se non mi danno il microfono normale, chi ci faccio? Vabbè, allora fatti dare il microfono normale, io te lo facevo per te, poi. Ti ripeto, sei grande e vaccinato. Bravo, niente da aggiungere. Ciao. Via. Appunto, niente da aggiungere, ho già aggiunto tutto quello che dovevo aggiungere io. Non voglio passare guai per gli altri. Ok, Franco, hai già preso la sigaretta? Io sto fumando, io ho già fumato. Cosa devo fumare? Già fumato. Vabbè, mi sono ammassando le sigarette. Io da quando mi è venuta l'influenza, ce n'è un pacchetto 10 giorni, me ne fumo una dopo cena e una dopo pranzo, basta. No, alla fine mi sa che abituare nel cuscino me l'ha fatti ben nulla, non riuscivo anche a respirare quei giorni scorsi, cosa la sua sigaretta. Ma Luca, cosa fai? Devi provare la trasmissione alla Seganari. Ma Luca chi? Luca Manicomio. Non credo. Non credo perché non. Non lo so. Come devo dirti io, però. Non so che dirti. Io non lo sento. Guarda che non sia Gianni che stia facendo prove. No, è roba di Gianni. È roba di Santiago 7, di Frater qua. Non lo so. Io con queste novità non sento nessuno, è quartato. Non sento manco la mosca a volare, figurati. Tu figurati con questa la mondetta che prendo. Lo so. Questo che c'ho io non prende proprio niente. Non sento neanche Roberto quando mi sposto. Stavo facendo le prove sul canale 20, lui era sul canale 10, non lo sento, figurati. Vabbè, quello quattrato non ne prende colpi. Infatti, vedevo sì. Questo è il microfono quello che hai saldato tu, mi capito? Questo è quello che hai saldato tu. Va bene, siccome è a 4 va bene anche per noi. Non è amplificato. È da tavolo ma non è amplificato. Buonasera. C'è la moderazione quel microfono allucinante qua. Buonasera da tutti. Basta che mi stai spaccando le ciao e vuole le cuffie già. Ciao Gianni, buonasera. Buonasera. Dove mi siete? Io beh, oggi a riposo, sto facendo alcune cosette. Io domani sono a riposo, anzi a recupero veramente. recuperare ancora delle ore della Natale. Bisogna recuperare, bisogna riposarci. Io ce l'ho dovuto prendere anch'io da cosa l'ho preso, la GBC. L'ho dovuto prendere anch'io, se ti ricordi, perché l'inoite è così, uguale. Ma allora glielo troviamo, non c'è problema. Mamma mia, già quanto sta gracchiando quel microfono, non ti ho mai sentito così, eh. Sentire, tricchia ballacca in 10 metri, ti faccio sentire con la verticale. da casa tua a Sassari con 5 watt, dentro il Mero, dentro il Ghero, sentirti sempre a fondo scala, mica è buccia di gioca. Ascolta, Sugar, qua vedo uno Yaesu 767 GX, 20 ore mancano, a 401 euro, cosa faccio? Gioco, non gioco, 767 non è quello VHF, VHF, VHF. Sugar. Sugar, gare, insomma, Sugar, è un bogamarì. Sto dicendo, questo 767 GX non è quello HF, V e U. No, aspetta, tutto questo, tutto qua. Il 767. Aia. 401 euro, ci vado? Controlla bene che sia quello l'apparato, che non abbiamo messo un codice errato, vai a fare una ricerca per vedere nel sito di Aesu da qualche parte se è quello lì, lo sai, no, se no dimmi cosa succede. Ma ti confermo, ci sto andando, mi sta aprendo la pagina, vediamo se è quello lì, il prezzo mi sembra molto interessante. Se è quello, mancano 20 ore, ci sono anche poche offerte, mo andiamo a controllare. Questo bogamarì cosa dice? Cazzo, non ho fatto la pubblica, tu hai con la mia, tu sei con la mia in tasca, quelle volte abbiamo fatto il di telefono, ma tutti i tuoi stai. Vabbè, infatti bogamarì sono io, tu sei il riccio. Ah, così è, no, io sono una cassa. Tu sei il mago di Zod, il mago di Zod, io invece sono bogamarì. Allora, 20 ore e 19 minuti, sì, è quello, Marco, isciu quanto è grande. Pippa mia. Sì, sì, è quello lì, Sugar, è quello, è quello, è quello. 77GX praticamente, aiuto, dammi la pagina, vai in oramara che ti prendi, allora, vai in oramara, ma che cavolo è? Sì, sì, è quello lì, VHF, VHF, VHF, 100 watt. Ma te ne sto litigando con Marco, ma tu vai? Litiga, litiga, portale via tutto lì. Portale via tutto, sì. Martino, sto andando a controllarmi la pagina qua. Cavolo! Aia! Monta una mantova, qualcosa, e noi siamo sempre qua. Siamo sempre qua. Vai Gianni per Marcolino Giotto, nonché il mago di Zod. Oh Giotto, dimmi una cosa, cambiato la modulazione adesso? Già, già, prima parla di prima, la verità si dica. Poi, bisogna dire a Claudio che lui è buonasera, è un tubo di radio. Claudio lo so che è esperto, ma uno c'ha l'orecchio, si sente, no? Come? Questa è la modulazione del microfono suo originale, l'altro era l'M300 della Intel. Guarda, proprio minimamente riesco molto di più l'altro. Lo che non è amplificato e ne ha risalto i bassi. Questo qua va a tagliare un po' e esce molto con i midi. Ecco, poi vabbè, ma per la notte è migliore questo qua, dai, più riposante come microfono. Cappa, io ti ascolto benissimo, veramente, proprio arrivi in maniera figlia, Gianni, ma tu quale donna, no? Io sono, diciamo, non proprio a casa di qui, sono a casa di Marco, ma un po' più giù, dai, zona via Balvezza, non so se lo sai. Scorpio. Tu lavoro, magari non lavoro, hai sentito? No, io non lavoro domani. libero cittadino. Domani mi posso, tutto il giorno in radio. Gaffa gaffa. Comunque, questo qui è molto debole, poi c'ho anche l'MB35, se rifaccio il collegamento magari esce anche più forte, boh. Marco! Di Notre Dame, breco breco breco breco, buongiorno, buonasera. Salute, baci, abbracci. Cosa vi state trafogando, Marco? Non ho capito. Buona, no, sto vedendo una cosa, sono andato a trovare Marco, così ero a un meeting speciale in tema del fondo di Gianco. Ma a tutti meno che a uno, salutoni e la prima non so più, il combo di Notre Dame. Ciao Messe. Ascolta, ho fatto una cosa, parlate pure, che non vi comprendo più nulla, rimango in quel Rix, ciao a tutti, quando c'è un po' di silenzio forse riesco a entrare, ciao combo di Notre Dame, saluti, baci, abbracci e arrivederci e buon viaggio, io rimango in quel Rix, riprendi Gianni doppio ru. Non sono mai stato proscio io in frequenza, e neanche orecchione, ciao. Tu sì che mi piaci, masculino. Yeah. questo proprio oggi. Vabbè, ho rimesso l'altro microfono. Poi non me la frega niente, c'è la mia modulazione che assomiglia a quella del poeta Falcone. È sempre un bravo ragazzo, solo che io invece di avere la tromba del naso lungo c'ho un'altra tromba. E quindi? Non ci vediamo domani mattina, se lo spiego, non ci sono problemi, già, ok? Va bene, positivo. Ciao, ciao, preparati che questa settimana ci tocca a cena, eh. Saluto a tutti, Marconio Giotto, Giorgio, Marco Scorpion, ciao a tutti. Ciao, ciao, Marco, ciao anche a Giotto, va. In queste greca, sì. Ma c'era anche Franco, non so, stava fumando. Ciao Giovanni, allora buonasera, ben sentito. Avanti Franco. E qua con me che sta manovrando. Oh, mamma mia, vabbè, manovra, buone manovre. Ciao, buonasera, buonasera a tutti, ben ascoltati. Ciao Claudio, ciao Gianni, ciao Giotto, ciao Marco. Cos'è già, mi stavo dicendo? Adesso cosa stai combinando, cosa stai aggiustando? Sempre roba da facciare io, Claudio, non ne manca mai. Vabbè. Comunque ti ha salutato poco fa. Ti ho salutato anche io comunque, perché poi mi sono allontanato, praticamente a fumarmi una sigaretta e a fare un caffè. No, assordato con il tuo microfono. L'hai fatto assorda, infatti, c'è un tipo tappato adesso. Domani ho una settimana di malattia, E ad te. No, io domani solo ciò che devo recuperare le ore, ancora di Natale, tra parentesi, e dell'inventario. No, io mi devo recuperare ancora 22 giorni di ferie, che è ben diverso già, capito? Visto che ancora non me li ho fatti. E più tutti questi di quest'anno ciò, perché le 22 sono dell'anno scorso. Io so come te, anche io dovrei recuperare 5 giorni di ferie dell'anno scorso, adesso che mi ricordo. A me pare che ti ribruciano fra, a gennaio poi ti bruciano il TV a zero. La maglia a zero, non mi ribrucia, ma è la maglia a zero, se non mi ribruci mi ribaga, e se non mi ribaga mi ricordo il infortunio. Ma è così, la legge è così, alle 7 a gennaio ti prendevano l'aria, capito? Bella legge, e vuol dire ci mettiamo l'infortunio già. Ma è stato un pezzo diritto. Esagerato. Se la ci vuole, se la un pezzo di vita, non abbiamo anche la pensione. Ma tanto bene, la cimino, come facevamo da militare? E da militare la bomboletta del gas, un colpo, pure ti fratturavi la mano. Allora. La gappa, riprendi qua. Caldo. E forse lui non l'ha visto, si guarda sotto, in alto, sulla destra, sotto c'è scritto pezzo di riserva. Esce quello lì, sale, perché 20 ore sale. Abbiamo arrivato la portante, ma in caruccia. Prendi Mario. No, non vendo niente, io compro. Ho detto riprendi, ti piace questa radio, Mario? Ehi, qual è quella che stavi provando poco fa? Eia. Ammazza, ah, bella vero. Bellissima, molto bella. Aspetta che te la faccio sentire con l'altro microfono, Marco. Già l'ho già sentita, ci ho sentito quando state facendo le prove, solamente che eravate tutti quanti eccitati, che non capivate manco quando la gente breccava, per carità. Poi io l'ho sentita, se no già lo sai che faccio entrare subito, come ti sento. A me come va? Va bene, è bella, è bellissima, davvero, attacco a 6 punte, balerà, tipi di tappara e via dicendo, là. Già l'ho sentita poc'anzi, ti ho detto, sei sceso a caso a rotta di collo giù in macchina per ascoltare la motivazione di Marco. Eccitatissimo. Gappa gappa. Siamo drogati tutti, siamo tutti drogati. Voi sarete drogati, io no. Io ogni tanto qualcosa l'acquisto. Niente. cazzo, ci hai messo mezzo secondo per scendere le scale e andare in macchina a ascoltare. Io non arrampo, non è che sia niente di io, non arrampo da primo piano a Kappa Kappa. Perché va bene comunque. Allora hai fatto l'affare? Diciamo, quando ho fatto certo. Sono contento per te, da. Auguri, a godertela. E ancora non hai tolto la parola, perché devo parlare con la pantera prima. E la pantera già lo sai che già ti accontenta, solamente che uno è acquistare così che lo vedi e lo tocchi con mano, e uno è di quell'altra maniera, capito? Ma è un brutto gioco quello, perché non sai mai dove vanno a finire, non sai mai a chi li hai dati e non sai mai con chi hai parlato, perché purtroppo succede così, perché secondo il mio punto di vista uno dovrebbe dire sì, io te lo prendo, però contrassegno. I soldi li prendi quando io vedo l'oggetto e lo tocco con mano, anche se no il tuo denaro non ne vedi, perché a fiducia reciproca tu devi mandare i soldi prima che lui te lo spedisca. No, tu lo spedisci a spese tue, poi quando arriva me lo guardo, possibilmente lo provo, e se non va bene il giudoro attaccato in tre cattoli lì, rimandalo al mittente. Speriamo che li becchino, perché quelli hanno mangiato troppo, capito? Se l'hanno mangiato solo la rosa, noi quello che sappiamo, poi chissà quanta gente che si vergogna di dirlo. Kappa, sono d'accordo con te, però non si compra così solamente per aver visto una fotografia, perché io su un monitor posso mettere qualunque tipo di fotografia. E da voi vado come a Napoli, vedo che andate a comparsi la misura e da voi hanno buscato un mattone, così ne fatto con lui. Vabbè, attento, cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare mai? Sempre saremo qui, ci la domani a parlare. Il problema è sempre lo stesso, ormai è fatta e buonanotte. Oh, caro Gianni, non è così. È che purtroppo al giorno d'oggi bisogna imparare a aprire gli occhi, perché quattro vedono meglio di due, capito? E così che siccome tu ne hai solo due e non ne hai quattro, allora, fiducia per fiducia, se tu me lo mandi e io ti pago il contrassegno. Se ti piace così, se no te lo bollisci. Bisogna, in qualche modo bisognerà pur puntare i piedi contro questa gente, perché tu non hai, quando compri così non hai nessuna garanzia. Anzi, non sai mai che stai mandando i soldi, perché magari ti danno di mandare i soldi a un pay box dove danno una casella che l'hai affittata magari per 5 giorni e poi la rega non è oramai. E tu che gli occhi erano 4 non 2, perché ce l'ha messo la pastora, abbiamo guardato in 2 e la cosa l'ha fatta talmente bene che ha fregato sia mai che a lui. Mi dispiace perché sono sicuro che la voce, cioè non sei uno che vai a rubare i soldi e poi anche se li hai buttati non te ne frega niente, è uno che li lavora e giusto, prima di buttarli è un grande corso, capito? Cioè, a me mi dispiace che ci sia andata così, non hai idea, perché a me non mi ha toccato se sia contento, per carità. Mi dispiace che siete stati fregati così come due ingenui. Ma purtroppo ormai non si sa mai chi c'è dall'altra parte, capito? Quindi, è quella la storia. Claudio, ti sì, ancora. Ehi, sto uscendo, dai, mi sto avvicinando un attimino a casa di Marco. Comunque io ho fatto l'offerta, per il momento sono quello che ci ha aggiudicato l'oggetto, adesso fra 20 ore, 19 ore le controlliamo, vediamo, dai, sentiamo dopo. Questa notte si deve salire alla CRM. No, vai, sono i siri e quelle no. Non beve Marco. Sì, vabbè. Guarda, qui domani al limite, se ti vuoi farla vedere, tanto io sono libero, magari ci facciamo una chiacchierata. Ehi, ehi, ciao Mario, ciao a tutti i corretti. Ciao, ciao, ciao. Avanti che è rimasto il ruolo. La roba sto quadrato, sì, sì. Roberto, Roberto Quadrato. L'ingrassatore però lì dentro polvere non entra perché che lavora il grasso e boh. Ma dove si va la polvere e la cosa? Vedo sempre che tutto si impasta, si fa a coso ed è un casino, perché è tutta la cosa dove tu lasci delle tracce, che c'è umidità e cose, poi e dopo un paio di giorni con la polvere la cosa si torna a impastare e diventa un casotto. Ma chi è rimasto? Io, tu e Luca, Rosario è uscito, quegli altri erano in quel ring, boh. Ma signor meccanico, un momento, avanti meccanico, va, meccanico, no, no, qua dentro si sarà dormito, lui va a letto presto. Sì, è presto, non è che si è perso, 10:30 passato. Ah, beh, Mario. Ehi Franco, io ti ho salutato poc'anzi e anche a Mistero, però non mi ha risposto né uno né l'altro. Comunque va bene lo stesso, non c'è problema, sono dimenticanze che succedono nella frequenza. Capo Mario, io non c'ero perché mi sono alterato un secondo, comunque saluto il 351 da parte mia e saluto neanche gli amici. E Claudio? E Claudio è uscito, non c'è. Gava Gava, vabbè, allora buon corretti anche a lui, se passate in corretti. Capo positivo, mi sono allontanato Mario perché mi ha sceso il tendone dal poggiolo, capite? E quindi viene arrampicato come le scimmie. Certo, anche la notte fai la scimmia. E ti hai sentito quando ti sei allontanato per fumarti la sigaretta? Mi sono allontanato, poi sono rientrato in radio, più ho sentito un rumore, sono sceso dal poggiolo, c'era quel tendone praticamente che si è sganciato dalle staffe e stava sbattolando sopra l'altra finestra che c'erano su. E quindi ho dovuto sistemare la questione. Sistemare, legato provvisoriamente, poi quando fa un po' di belle giornate mi sistemo il tutto. Radio. Ciao Antonello, buonasera a tutti. Quando non mi fa scelto, com'è? Prova! Ora, dove c'è? Guarda. Ma io diciamo che ti ascolto bene, però sei sempre un po' con asino. Ma ancora raffreddato sì. Sì, forse sta raffreddato, ma che si può dire all'altro. Guarda un po', guarda un po', guarda un po'. Ti piace quella cosa, guarda un po'. Se ne è troppo, abbassalo appena appena. Va bene, va bene così, così. Tanto al microfono io, come si comporta di questa cosa? Ma non facciamo una cosa a parlare. Sono di quanto un metro, più o meno, guarda un po'. Tappa gappa, sei Santiago 9, quando muoio di Santiago a 9,5. Già va bene, l'ho sistemato mio, pochi minuti fa che si è messo da fuori. C'era un risultato bruciato, ecco perché non c'avevo l'audio, cioè, stavo dicendo il tempo. Ma sono salvato, ho sistemato. Va bene, questo è pronto prossimo dia domani se vuoi venire a prendertelo. C'è anche l'amplificato quello palmare che è pronto di quello, e quello da stavo di questo paracchino qui, di quello grande. Io sto scendendo un quello grande adesso. 8B? Eh? Con quel M3B o com'è? M3B? Dai, quello che ce l'ho è qui, tutto lo trovo. Ma tu adesso cosa stai modulando? Con M300? Sì, con M300. Comunque buona la modulazione. L'amplificazione ce n'è, fa, dal tuo amplificato, con l'amplificazione ce n'è. Però quanto è? Questo è un amplificato di radio, questo è un numero 300. Sì, capa, praticamente la tua amplificazione già si sente, e a me non ne ascolti. Perfetto, perfetto anche a te. Questo è l'unico microfono che va bene per quell'apparecchio grande. Con l'amplificazione si sente un po' amplificato. Poi la macchina non è perfetta, te lo diminuisco, se lo tengo a strappare. Ecco, questa è metà. Lo parlo vicino al microfono, così c'è data un po' di impedenza. Guarda un po'. Ma poi ti ascolto bene. Andrà bene, a te ti trovo il microfono a tavolo, mi dai contatto anche con quello. Metto il microfono a tavolo, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, ti aspetta però, devo mettere mai che chiamare, ecco qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ti ascolto bene, però non ho capito dov'era la resistenza che hai saldato. Dentro alle 300, c'è la resistenza bruciata. Ah, KK. Allora non era il PTT. No, non era PTT, la verità non era PTT, perché l'ho cambiato, comunque c'ho di riserva e quello se lo conservo per sicurezza. E già non c'è problema, l'ho messo da parte così ce l'hai nuovo. In caso capita magari qualche altro metro al centro che cambia qualche problema, i pezzi già ce l'hai, ti ricambio. KK, già andrà bene. Dimmi una cosa. Quel microfono piccolino amplificato, l'hai pulito dove c'è il PTT? Perché anche questo qui mi hanno detto che quando schiaccio la portante si sente cri cri cri cri, sembra che ci siano i grilli, sia quando la metto la portante che quando la tolgo. Ehi, te l'ho messo qui vicino, l'ho portato poco fa da casa di mamma. Te l'ho messo e dopo lo provo. Adesso lo farò qua, per andare a sventiare, che gli ho passato poco fa. Dovrebbe sventiare, sarebbe dovuto essere pure asciugato un poco con qualche straccetto pulito in modo che rimanga asciutto e che non si impasti, perché se piglia un po' di polvere, lo sai, si impasta il pizzo. Sì, già lo so, già lo so. Vabbè, ripeti, se no lo sto monitorizzando io qui, c'è anche Gianni, mi sembra, o chi è rimasto di altri, non lo so. Autore a tutti, riprendi qualche mio, dai. Sono qua, ti avvento già fra un po'. K, riprendi Gianni. Gianni. Comunque qui, ma sto cercando il microfono, perché adesso 50 anni che non riusciva a trovare quello giusto per rispondere. Thank you. da lei, comunque non ho capito chi sei, Vabbè, tanto se si può già per ricordare, era una volta che non andava a fare. Anche io sono stato all'incirca 7 anni, 7 e forse quasi 8 senza modulare. Ma se vuoi la fai casa? No, io faccio l'autista di un piccolo Dendi, però poi mi devo adattare a tutto quello che comporta il nostro lavoro là. C'era un periodo che andavamo spesso a Urbia e niente, qualche volta abbiamo modulato anche lì. Magari hai conosciuto un nostro amico che era sempre lì nelle zone di Urbia, Pier Andrea, nonché Papalfa. Vamos a continuar un poquito para que le hagas. fatto è fatta questo apparecchio. Tutti chiari siete, tutti campionati, tutti chiari, non siete bisogno di fare 275 o 276. Tutto è barba larga, non intendo. Non è vero, non è vero. Sono vestiti delle messe di recenso, che mi sta gracchiando, proprio a farlo su di quello che fai. Ma non gli ha fatto nulla, prima gli faceva passare il rumore, adesso non gli fa la nulla, cosa posso fare? Cambiamo il TTT, io ho fatto tutto qua un ammale, l'ho fatto mettere nuovo, meno male, cioè, anche se non c'era bisogno, uno ti va a capire il verbo, meno male. Altro, si è tornato che questo qua, questo è la metà di dentro. No, questo qui è il mio, questo è la metà di centro lo stesso, però con quel rumorino, ma si trova male il VTT numero? Non lo so, non lo so, anzi, ma ti chiedi della parecchia 1, figura. Adesso l'ecco, è la prima tacchetta. Uno, due, prova. No, io l'ho tenuto tipo il stesso cappellare primo. A uno? Così. Più o meno, il suo dipende se lo do però. Così? Si sente in silenzio, cosa sono guardare? La televisione. Ok, è un po' più il microfono, questa vita. Che è maletto mai che ieri? Se mi dovessi mai che ieri, non cambia lui. Un momento. Non si mette che accorgo, ecco. Sto parlando di quanto è il microfono, quasi un metro. Sicura di tutto, vado a un bagno a caricare l'acqua, si sente tutto. Sì, si sente tutto. Sì, ma funziona meglio a casa che in macchina. Non si sente il motore. Sono contento che sta facendo bene questo microfono. Se oggi l'ho messo molto sbagliato, riusciva bene in questa legge qui, Mario. L'unico che va bene è come le fettice tu due, il 900, sono venuto lì va. No, 900 è solenta, non ce n'è per queste cose qui. Ma tu cosa sei, come hai visto la palla di Mario adesso? Sì, non la palla di Mario, bene. Se è bene. Va veramente bene, va bene, va bene. Me lo immaginavo che si fa così, non mi sono sbagliato, c'erano i dubbi la verità, però ricordandomi come si fa l'FT7B, mi sono reso conto che va bene, la qualità è giusta e si adatta bene a questo apparecchio qua. Adesso l'unica cosa che in seguito vi farò, mi cambio il salotto, lo chiedo alle persone, li porto in un proprio dentro l'apparecchio, così non devo usare le batterie. Mario, tu come mi senti? Non è male. Sono ragione o sono lo sotto delle mette centro? È in KK, già ci avevi ragione già. Beh, tu gli effetti ne hai avuto diversi e così che lo dovresti sapere più di me quali sono e quali non sono i microfoni che si adattano bene. Io non ci sono, in salenza e gli mette centro, sono bene per qualsiasi tipo di apparecchio lo attacchi. Se vuoi attaccare le 300 a quello che c'è in tua casa, la tua, si mangerebbe il quello che c'ho. Questa verità? Sì, come applicazione sì, la verità finita sì. KK, io non lo so, non sono né tecnico né niente, capito, a me mi piace chiacchierare e quando i corrispondenti mi sentono bene, sono più che contento, a me non è che mi interessa dover fare chissà che cosa, a me mi interessa solamente che mi sentano e boh. Va bene. Ah, mi devo ricordare, ma mi hai documentato, vabbè, quello quando mi dai il baracchino l'omologato, devo fargli quella modifica, quella gita, quel microfono da palmare, per portare il settore esterno, se no ti sono incasinato. Va bene, tutto l'altro non c'è problema. Questi tre microfoni sono tutti attaccati perché sono gli apparecchi, quindi sei tranquillo. Poi l'avevo gatto, quello, il bambale piccolo, questo comunque già funziona, in tutti questi apparecchi che c'hai, quindi c'è il microfono unico per tutti quelli che vuoi, hai due di microfoni amplificati adesso, un quello da tavolo, che mi sembra di essere anche all'alto, perché sono stato a 4, qui non dovrebbe avere problemi. E il KK? No, è perché così li conservo, li metto tutte quante in un posto in modo che, sai com'è, per via della digestione è meglio che i microfoni non ce ne siano mai in giro, almeno non ti rompono le scatole più di tanto. Va bene, va bene. Gappa gappa, riprendi Gianni. Sì, sto prendendo. Quello che non è? Sì, il 707 della Yaiz. No, quello che sto usando io. Ah, non lo so, non lo so capirlo adesso. Perché sto usando in questione il 707, non me ne accorgo, capito? Sono abituato alla parecchio grande io. Quello poi è il 707, c'è il stai scendo bene, non dico stai scendo male. Ma ora scendo bene. Non me l'ha parato, però l'ha fatta male. No, non me l'ha parato. Saluto. A me piacciono meno, a cui vi piacciono meno molto questi, diciamo, degli anni passati. Mi sento bene, non voglio. Va benissimo. Non dà alcun problema, stai scendo bene. Senti il microfono rumoroso. Sì, appena non molto. Perché può diventare male la tua vedere se fa quello lì. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aspetta che non le palestre di quel giochetti. Questo è palmare, amplificato della Intec. Sì, io ho cambiato anche la capsula, quella che c'era l'avevo messa là, il microfono amplificato da tavolo Mario, e va molto bene, vi ho detto quella tavola, quella cazzata che gli hanno messo, quella specie di cosa, di pastiglia per il mal di testa, e se no anche se l'ho incollato, ti ho messo la colonna del cappello di cappuccio, vuol dire che sei tranquillo, non devi più toccarlo. Contento, da. Allora domani sera ti porto il tuo e mi riprendo il mio. Fammi quello, mi porti anche l'omologato Mario, il 66, se non lo stai usando, così ti faccio questo microfono qui, così poi dopo domani ce l'hai, non c'è problema. E poi venerdì, domani giovedì, dopo venerdì ti faccio lo spoglio, me la posso, e se no c'ho paura, non sai che... succede qualche attacco dell'appartamento, no, perché ci metto sul del tutto e lo trovo anche l'acqua. Anche mentre stavo fatti l'apparecchio, almeno ti sento bene, non voglio che hai problemi in trasmissione. Ecco, gappa. E no, poi c'è anche questo che sto usando, che non si sente più. Niente, devo usare le cuffie si sente o non si sente, bisognerà guardare quell'attacco dello spinotto del jack, da, perché non può andare un apparato a colpi per poter sentire l'audio. Questo problema che ho io dello spinotto nel cubo è la stessa cosa, se inserisci lo spinotto grande delle cuffie nelle cose non si sente più, allora con cacciavettino devi appena abbassare la lamella e funziona, tutto insieme con le mani la lamella e non fa la commutazione, è una pezzeria quella manovale, andrà bene, e tu guarda Gianni, ho diminuito la potenza. Adesso l'ho aumentata e infatti si mangia per la radio, allora qua l'unica cosa da fare è quando trova Adriano gli porta apparecchio a fargli la, questo apparecchio qui a fargli fare la tarattura della trasmissione della partenza del commissicale della modulazione e l'apparecchio poi a posto. Non è che può diventa un bicio. Quello si può fare in un secondo momento, un po' che si funziona i microfoni e voi. Prenderà a me quella M300, quindi. Guarda, non ho più la M300 a nessuno perché mi ha chiamato la voce e mi è bastato. Ho sentito il quarto critico che mi è passato del mano in mano e quindi non devo dire. Anche se qua, se me la volta è capitato una M300 non lo tengo io da questa volta. E quindi non lo per nessuno, almeno nessuno dice niente. Quindi no, mi è bastato una volta, non lo dico più. Anzi adesso devo chiedere una cosa, se ce ne ha con qualcuno di M300 che lo fanno uguale a un CD, se non lo dà me lo prendo io, però lo tengo da una parte per la qualità del seguito di comprerò uno di quelli piccolini da mettere in moto, così per montare la portale. A che moto perché te lo metti adesso? Ehi, così per montare la portale. Fai bene, fai così, fai. Ti sento sotto casa, io scendi, però per la mia che sono che salvo, poi c'ho freddo. Allora, come ti sto arrivando alla tua zona? Sto usando l'Intec. Dove è l'Intec? È la radio. 5. È normale però la radio, Non lo sento di 5 perfetto. Brava. Mario, a te. Addirittura K920 Radio 5, perfetto, effetto presenza, come che fossi qui a fianco a me. K Mario, allora già va bene il tuo microfono. Cava. Gianni, ripeti. Va bene, naturale, dai. Che microfono è? Stile anni 80. Di forma dura, Giulia, con banana, chiave dello gestivo, ce l'ho anch'io, è uno della IE, mio, sembra la fissata, lui ha reso, è un FM33, capito, quello normale è da parlo, capo è positivo, quella vista che me l'hai fatto vedere, è mio anche, e già va bene, microfonino così, ma già va bene. Sì, visto che sta facendo una lavoro. Capito, magari si sacca un filo vivo per dire, c'è quello del riserva. Sta pagato, basta quanti microfoni c'ho qua, ne avrò una ventina. Ehi, esagerato. Sì, microfoni normali mi pare ne ho 13 o 14. Poi, no, io ne ho uno, due. Un attimo, già che mi ha lanciato un secondo. Si è esaurito. Una bomboletta è ora, Mario. Ho visto già che si tirava dietro tutto il rumore dei cani. prenderla a me. Però se deve fare che c'è quello là che va benissimo. E quale già? Sì, quello dove è più 5. Quello dove sono cambiato la quarta. Ecco, pagava. Non lo sto usando, adesso sto usando questo qua. Potenza sul radio, ma era invertito la radio, quindi non spingeva come doveva spingere, tutto lì. Era quella sicuramente, ma sono accorto quando ho fatto la lunga per mettere in la parte il microfono, e anche io ce l'ho con l'adattatore, ma già che cosa, ma ce l'ho con il microfono, ma era proprio mettere in la parte andava male. È comodo, però non è comodo, ma non è comodo. Perché? Perché stai con questo filo in mezzo ai piedi, capito? Tutti questi fili intrecciati, è un problema. Tutto lì. No, non è vero, va bene. Fatta dietro. Ho fatto passare dietro. Ma non l'ho fatto, Gagava, andar bene meda. Stazionaria, cioè non è possibile, sapete? Strano, come mai che ci sono queste stazionarie? Sì, la chiusa. E prima non ne avevo. Se uno è qualcosa, ne ho. Prima ne avevo 0-0-0 su un fiore, ecco c'è stazionaria, c'è uno, no? C'è uno, dai. E allora c'è stazionaria. È appena più sopra dell'uno, ma qui ci sono buone, dai, diciamo. Sì, no, anche un minuto poi c'è il quinto, là. Non è altro, là. E neanche c'è uno e appena, sale. Ti credo che non si muove l'altro. Magari. No, per uscire se non andare bene, davvero, questo scenario. Kappa. Eh beh, Marie, come è andato oggi il trabacco? Tutto ok? Con me, un bel stanco. Davvero. Niente, da. Comunque ero a Sassari. Ho fatto solo una consegna lì a Itiri e una a Osiri. Roba da poco. Andato e tornato. Poi stasera sono andato a Cosu lì, a vicino al deposito della Sisa, per pigliare una vasca da bagno, un idromassaggio e niente. Però ho lavorato in capannone a mettere tutto a posto la roba che ho portato da Cagliari, sistemare, fare, pulire, un casino, sono crepato. Poi c'è stata la capannone. Anche io in officina, quando sono in officina, oltre che finisco le macchine, devo sistemare, sistemo poi un po' tutto, capito? Metto poi in ordine. Quando non ne ho voglia, non faccio niente, Mario, capito? Kappa. Bra, quel raschietto fatto me la vedi? Kappa è positivo. No, perché quando ne siamo andati a pescare mi serve per fare le cose. Se ci riesci mi fai anche quella specie di coso, quella specie di bilancino come il tuo, te lo ricordi? Sì. Come il mio? Ma quello è un acciaio inox. Ecco, c'è un po' l'acciaio, via. Devi buscare il tubo in acciaio però è per farlo. Ma quello lì mi dice quanto ne devo pigliare di quel coso, di quell'affare lì. Noi abbiamo la piega a tubi e lo faccio sagomare direttamente in rotondo a grandezza del coso, non c'è da pigliare altro che quel coso dove mettere la corda, là, quella specie di anello, fai il buco passante, il dadino, lui è fatto, gli devi fare praticamente solo una saldatura. E vabbè, per la saldatura la faccio io, non c'è problema. La facciamo con la... o a cattoli, la facciamo con il cattoli direttamente, a cannello, con l'ossigeno, e se fa. L'importante è fare il cerchio, io ti do la misura e poi lo fai costruire direttamente il cerchio, poi la saldatura la faccio io. Gappa. E tanto è facile, non è che sia difficile fare il cerchio. Davvero, io compro il tubo e poi con la piega a tubi gli faccio quelle curve più strette, diciamo così, quella dove sale e ci deve mettere il gancio, poi sotto si piglia, boom, e si salda, e la saldatura gli si fa sotto direttamente e ne fai una solo, non ne deve fare tante, no. Capo, una saldatura faccio, una saldatura e basta. Dopo si fa la saldatura, dopo si fa la prima saldatura si mette anche l'asta, praticamente la c'è, e poi per legare la cima con lo spago. E capo, no, anche perché lì prima di saldarlo bisognerà infilargli la rete. Ma la rete, no, se infili la rete poi viene a saldare, c'è il rischio che si brucia la rete. La rete si fa a cucitura come ho fatto io, è una cazzata a cucirla. Ah, cappa, se lo dici tu mi fido di te. Io l'ho fatta tutta a cucitura a mano la rete, quello che c'ho, l'hai visto quello che c'ho io, quello tutto inox? Già l'ho visto, già, è quello che mi è piaciuto, perché quello lì è comodo per quando fai le cose, è comodo per quando devi salire qualche pezzo un po' grosso, che una volta che entra lì già poi già non scappa. A parte quello, poi c'è l'altro copo che è praticamente 5 metri, col manico tutto al carbonio e praticamente il copo è in alluminio, tutto sagomato bene, tutto fatto da me, anche quello lì è fatto un bel lavoro, diciamo così. Là. No, io l'ho persa la rete, perché io ce l'avevo la rete, però quando abbiamo pescato quelle rate un po' grosse che le ho portate a casa, l'avevo messa dentro una busta per ripiazzarla nel coppo. E invece poi, quando siamo andati via, mio figlio ha dimenticato per terra, sono tornato dietro ma non c'era più. Nella busta e nella rete, mi toccherà comprarla. Lo sai, ma tu la rete, di quella rete buona, quella che ho preso io, lì allo scoglio lungo. Ah, ho capito. Ho capito, sei vicino al tabacchino. Capo è positivo, costa una cazzata e pare che costi 3,50 euro, però è buona come rete. No, quella che è tua è buona come rete ed è grande anche. L'ho presa lì, l'ho presa, lì allo scoglio lungo, 3,50 euro mi pare, o 2,50 euro, non lo ricordo, comunque una parola del genere, non più di 3,50 euro comunque. Una cosa, quanto ne devo comprare di questo tubo in acciaio? Ma io penso da una verga da 1,40 m, 1,30 m facciamo tutto, ne prendi una da 1,5 m e poi si può fare e facciamo tutto qua. Se lo vuoi grande, se poi lo vuoi piccolo, ma ti conviene farlo grande quando lo stiamo facendo, come il mio. No, lo faccio come il tuo, perché quando vai a fare le cose almeno lo metti sotto le cose e cadono direttamente dentro. Io ne ho due, ne ho uno rotondo, quello in acciaio, e poi ne avevo fatto uno quadrato, quello che tu hai visto, quello grande, enorme, quello io lo affondo completamente e poi vado a raschiare e ne porto su, ogni affondata di quello ne tiro su 5-6 kg. A me ne basta il coppo rotondo, non è che devo fare chissà che cosa. Io quando ho il tanto per poter pescare, poi non è che me ne freghi niente, capito? Poi al limite, quando inizia il tempo bello, casomai qualche uscita ce la facciamo in barca. Cavolo positivo. A andar bene. Adesso dovrebbero cominciare le orate, dal mese prossimo, da aprile, si può cominciare a vedere se c'è qualcosa. Capa, io ero intenzionato andare lì a pescare tra il molo A e il molo Catani. Ma lì è un casino, Cata, è molto controllata quella zona lì, capito? È molto controllata, stai pescando con la canna, non è che stai pescando chissà che cosa. Ma non lo so se si può, non lo so, ma penso di sì. Non sei dentro il porto, non sei da nessuna parte. Subito quando esci dal molo Catani per andare verso il molo Asi, diciamo così, di fronte alla marinella di Porto Torres, la vecchia spiaggetta che c'era una volta, ti metti lì in mezzo, si dovrebbe pescare bene. Tappa, sì, lì sì, lì dovrebbe pescarsi bene. Tappa. E quando ti hai fatto un po' quelle cose, te le pigli, te le carichi, e butti la barca in mare e si arredi. La cosa è micidiale, non ce n'è, stare, di tutto prendevo la cosa è una signora esta, Gappa. Poi se è legata col filo elettrico ancora meglio. Gappa, già lo so già, ma anche a cosa chiuso, visto che l'orata già non si scoccia a schiacciarla con quei dentini che ha. Guarda quanto ne ho perso, Gianni. Gianni. Attento Gianni, il doppio rum. Quello si è addormentato. Sì, è maniera. Guarda, ho detto già, ti ricordi la volta che eravamo scesi, ora, te quella grossa l'avevo perso, isso. Sì, è quello che avevo preso, che ho fatto io, mi ricordo. E una l'avevo preso, e l'altra, quella grossa che qui ha fatto la tirata, tal più bello si è slamata. Qui c'è tipo un risvaglio, tipo un vascone. Non è vascone, no. Dove ci mettevamo noi, quella punta lì, entrano da fuori, capito? Ma bisogna fare, non è troppo lungo, io con la mia non ce la faccio. Certo, io ho perso già la mano di lanciare, adesso sono a me che non ci va, devo fare torno allenamento. Sì, glielo facciamo piano. E diciamo che il lancio vuol dire parecchio, sembra così, ma più lanci e più possibilità c'hai, a volte più lanci e non prendi niente, magari lanci sopra e sono sotto lì. È vero anche quello, confermo. Perché c'è stato un periodo che io lanciavo lontano e non ne prendevo neanche una. C'è stato gente che gettava a 10-15 metri e ne toglieva di orata a 4-5 kg. Perché quando non vedono nulla, ma non le cose. E allora, poi se fa il brumeggio ancora meglio. Se tu vai la sera e ci fai il brumeggio lì, schiacci le cose, le giri che non ti guarda nessuno. E poi la mattina vai e peschi, e sta tranquillo che se come entra il branco si ferma lì e fai primiere, se è bello. Fai gettando e togliendo. C'è stata una volta un tipo, io l'ho visto, no? Questo andava la sera, brumeggiava e poi la mattina andava a pescare, ma sai ora che ne toglieva 10, 15. Una volta questi ragazzi mi hanno detto. Le calze da Roma e quelle sottili, prima le schiacci tutte le cose assieme alla calza, no? E poi con un sasso ce le butti un po' lontano, una ventina di metri, 30 metri. Così non vuole da chiedere. Allora, e adesso non lo so. so, se domenica fa una bella giornata, se promette bene, ci provo a fare un salto, a provare se c'è qualcosa. C'è troppo, molto tempo. Ma le previsioni della settimana, l'hanno detto, tempo brutto? A fine settimana sì. Porca madosca, non c'è una volta che si riesce a fare una pescata come si deve. Sì, ce ne fa. Ma sembra fatta apposta, la voi tutta la settimana, poi come arriva il sabato o la domenica, o si mette a piombo, non scende l'aria, o poi tutto là. Sì, come non dire, come anche d'estate. O c'è mare brutto, facciamo, volevo provare a calamare, invece c'era mare brutto, c'era tramontana, e quindi praticamente non ci sono andato. Ancora c'è il calamare. Stanno prendendo già, l'altra sera sono sceso con mia moglie a fare un giro lì dove tu sei, e c'era Antonello, un amico mio di 48 ore, e praticamente gli ho detto che se ne stava prendendo, ma tu sì, ce n'è già, io le sto prendendo, non tanti, 7, 8, mi ha detto ogni sera, di te va bene, e belle grossi che sono, immagino, 7, 8 sono grossi pure. Io ci volevo andare, la verità, però poi praticamente non c'è, ho detto, c'è mare brutto, c'è vento, c'è questo e quest'altro, sta piovendo, non ci sono andato. Poi c'era anche questa tramontana, perché addirittura era stata tramontana, oggi c'è della tramontana, buffa. Oggi vedo un po' di luce pure questo giorno, quindi ti può immaginare. Poi pioggia, polvere lì, pioggia, per carità, qua. È meglio sulla roccia. Sì, è un cantiere. No, ma io adesso quando vado sopra quel muro non mi metto più. Cioè, a parte che prendo un bel di vento e poi mangio un bel di polvere. Quando sta caricando la nave lì, per carità, diventi bianco, diventi, sembra un sudista. Sì, perché lì se la muova si dite, la muova si dite quella che vola. E poi quando ti si fila nel naso, c'è il brutto che ti dà. Una volta faccio la cottura, me l'ho convinto andare a pescare con gli amici. E loro sono alle 6 di mattina, adesso ci sono alle 8. Poi le sono attumato, perché loro sono alle 6 di mattina, ma non avevano preso nemmeno un pisciolino. Se l'avevo fatto io, si sono tommarizzare, ero un'orata. Era una bella bella domanda. E fatto fatto che c'era questa bella città che volava. Figurati, per carità. Adesso abbiamo certo fatto stasera abbiamo sistemato tutte le canne da pesca. Abbiamo sistemato, ho cambiato la lente a tutti i mulinelli già, tutti già pronti. Ho preparato tutti i filaccioli, ami, tutto quanto già pronto, cioè, capito? Adesso devo sistemarmi con la canna che uso per il calamare, che è quella da smontare il mulinello, pulirlo tutto. Quel pur conto era tutto pieno di salsine dentro, sabbia, c'era poco di roba. Anche io l'ho fatto domenica scorsa. Purtroppo l'attrezzatura, se non la pulisce è un casino. Vabbè, io prima lavavo il mulinello in acqua normale, poi mi metto la mano in cielo del cibo. Dopo mi metto il glacio sopra. Gava, gava. Mario, tu non le pulisci i mulinelli? Ma adesso non mi... Figurati. Capito Mario, adesso cominciamo e quindi preparati bene. Niente, giurai, le canne me la 572 me vegliuro. Che animale che è. E tipico Mario, già prima è lui che recuperarli. E KK. Allora, purtroppo ci vogliono un bel soldini a comprare. Cazzo, questo mese mi sono sbancato, mi ho comprato la radio credendo che tutto procedeva bene, per carità, una dietro l'altra. Cazzo, si è scoppiato il coso, la lavatrice, e l'ho dovuta comprare nuova. Cazzo, e poi si è scoppiato anche lo scaldabagno, ma non lo scaldabagno quello da 80 litri, no? La caldaia, vero, quella gas. Per carità, ragazzi. A me, io l'ho cambiato da poco la scala da bagno, 2 mesi fa, entra in bagno così tranquillo ci vedo quest'acqua, cacca spruzzata sopra il muro, ma dove sta perdendo? Allora che guarda il tubo bucato all'interno, la controllo, ricontrollo, e cos'era? La scala da bagno bucato. Ho dovuto chiudere l'acqua, scaricarne tutta l'acqua della scala da bagno, e meno male, che la fortuna mia, che avevo messo il rubinetto nell'ingresso dell'acqua fredda, c'era guai. Gappa di positivo, no, io già ce l'ho lo scaldabagno, però non lo uso, capito? Usavo la mia caldaia, lo scaldabagno era per quando necessitava qualche emergenza, infatti adesso si è scoppiata la caldaia e sto utilizzando lo scaldabagno, altrimenti non mi potevo lavare. Però il mio era uno scaldabagno piccolino da 50 litri e se si parla di c'è uno non sarà parlato. Per fortuna che io me la faccio quando rientro dal lavoro, e invece mio figlio se la fa la mattina quando si alza, se no non sarebbe bastato. È vero. Ma adesso vediamo piano piano, al limite me la piglio da dove sto lavorando, stesso me la pago in 2 o 3 volte. Bisogna fare così. A me invece è rotto il telone e il tendone del poggiolo praticamente. Adesso vedo un po' di comprarlo nuovo, ci vogliono 850 euro. Gatta, così un bel. Mi ha fatto preventivo di 850, però adesso praticamente chiedo un altro preventivo e voglio vedere. Secondo com'è Mario, faccio la vetrata direttamente e piatto la vetrata. No, a me la vetrata, la verità, non mi piace. Mi ho comprato un telone e mi sto facendo fare l'orlatura dalla sarda, lo infilo nel bastone qui per il terrazzo grande, che la gente sta sempre mai detto cosa fa del suo gas. Però il telone, il tendone è bello ma è brutto anche, perché col vento ti si strappa, ti si fa. A me l'ha rovinato il vento questo qua, quel vento forte, ma ha strappato il telone. E cappa. Oh, un attimo di bianco per me che devo fare una commissione. Vai, vai, c'è il vento, si chiude fra. Cosa? Quando c'è il vento dovrebbe chiudere la tenda. Se non si chiudo che c'ho il pozzetto, c'ho il tavolo, c'ho tutto in quel poggiolo. Data l'acqua, tutta la roba, le scarpe, la scarpiera, ho messo tutto lì. Perché adesso è la veranda allora? È la veranda. Io sto lavorando scorrevole che tu l'ho fatto io. E infatti stavo pensando di fare una cosa del genere. Cosa viene a costare una cosa del genere? E io l'ho fatto un milione di fa. L'ho fatto un milione di fa. Comunque non ci era venuto moltissimo. Io l'ho fatta oggi, da Tecnofera. Gabba gabba. Io ho preso che ci vogliono almeno 2.000 euro per fare una cosa del genere, forse 2.500 euro. Cioè, poi ci siamo fatti fare anche l'armadio per fuori, capito? Dove metti tutti, tutte le cose, gli imbarazzi, i riparati, i tubi, tutta questa roba qua. Imbarazzi, oh yeah. Cosa tutto ci ho buttato dalla veranda io già, per carità. Sì, gli accumuli, però fino a questa legge nuda. E accumuli, cioè con roba che non mi serviva e ho buttato via tutto. Addirittura c'avevo i cerchi della macchina con le gomme e tutto quanto ho buttato via per lui. Ma di qua, di quella? Allora, cosa mai facevo? Le gomme nuove. Insomma, non erano nuove, però potevano andare. Un altro annetto tiravano. Beh, ci deve la chiusura, allora. Perché non c'era posto e praticamente vi occupava moltissimo spazio, capite? Quindi per recuperare il posto ho dovuto liberare un po' di roba che avevo, roba praticamente che non mi serviva, quindi ho detto libero lì e mi sistemo tutto. Quindi ho messo il pozzetto lì, ho fatto l'impianto per il pozzetto, ho sistemato sotto lì dove ci mettevo la roba, tutto quanto, ci ho messo tutta l'acqua, siccome l'acqua la prendo a... E prendo 20-30 cartoni, capite? Ma la sistemo tutta lì per non stare a andare e tornare sempre. Tutte quelle cose lì, tutte le cose essenziali praticamente mi ho sistemato. molto nemmeno una, ma non ti sei portato la porta Roberto, qualcosa da realmente. No, c'era un televisore in cui gli fa il volare degli anni 80 e l'ho regalato. Io ma porta bello tu la porti per 20 e loro ne chiedono 200 non la vende mai. No, non è vero. E poi te lo concordo insieme. Ma una volta ho preso la fregatura io lì a Portobello, gatta. E non è come ti ha giocato lì. Io ho comprato lì una serie a Portobello, un Equilisterio 2000, ma ti parlo di 4 anni fa. Quelli antichi, il 2000 le mettevi tutti i dischi sopra, praticamente finiva uno e si andava là. Vado a provarlo, e non funzionava, non si sentiva niente. Stata di controllo e cominciava a vedere questo fumo scendo da dietro, finale bruciato. Ah. Quello della realtà, roba da chiudi, gatto, un odore di arrosto questo stereo che ci avevo. Se invece qualcuno ce l'aveva in campagna che arrostiva, cosa ne so. Avanti, Mario. Sì, Mario deve essere andato a fare qualche commissione. Fate l'amore. Vai, adesso. Fate l'amore con sapore. E beato me. Che mi sa racconta, da? Molta, nulla. Stai lavorando sempre? No, sono fermo questi giorni. Gava, cava di positivo e cava di roggero. Lasciami il numero, Antone, che se c'è qualche trabacchetta andiamo a farlo. Sì, non c'è problema, già te lo lascio. Ti fa trovare verticale qualche sera, così. Così ci vediamo, cava di positivo. Iaia, la carità. E così è già, capito. E praticamente ho buttato via un po' di roba e ne va ancora a buttare già, perché ce n'è ancora da buttare via. Ma se la roba che si può recuperare, ancora la Portobello, qualche cosa te la fai. Sì, già, Portobello, preferisco regalarla da Portobello, va. Addirittura ci avevo una, come si chiama? La voce del padrone. Bastiato. K, quello l'ho regalato a mio zio. Questo qua ci aveva il trombone, tutto quanto in ottone. E l'ho fatto quello, poi gli avevo dato anche il disco e in più praticamente anche le pennine del coso, come si chiama? Adesso mi viene a mettere il braccio, là. I chiodini, perché quello c'era un chiodo praticamente, che tu gli davi la corda, ta-ta-ta-ta, e ti dava automaticamente il disco. Se non prendevi a Roberto Quadrato, che si è andato in là? Ah, lui la piaceva. Poi c'aveva una radio addirittura della Telefunke, di quelle valvolari antiche, col mobile tutto in noce. Ma è il positivo. Sì, c'aveva anche il giradischi. Col coperchio bello, mi faceva mi pare era 75, 45, 33 giri. Sì, me lo ricordo. E anche mio socio me l'ha regalato per me lo venduta io. Ma sai cosa ho trovato l'altro giorno qua? Uno di quei giradischi a batterie che metti il disco a 45 giri. No, mi senti pratica. Ehi. Non mi ricordo i cilindri che facevano. Ma te ne voglio, dove fare questa cosa? Vai, buttare, lascialo qua. Ma gira dischi, no? Sì, gira dischi che funzionano la batteria, e poi ci vanno sei torce. Sempre sono le batterie. Ma sai dai, che... Poi ce lo apre, quello che metto di più piedi, No, non è quello che si rivela di strusi, se lo buttava fuori. Figlia. Tipo come si fa adesso con Cicilia. Cappa, nel video del trattore l'avevo buttato via quello che c'avevo, aveva preso fuoco e ce l'ho buttato. Adesso praticamente ho la cassetta del matrimonio che la volevo praticamente se si poteva masterizzare con sdoppiare con la col CD per trasportarla in DVD. Pronto, lo so dire, questi lavori non li faccio. No, non so se si può fare. No, le chiedo a vedere se è fattibile il discorso, come si dice. Dove è nato me? Quella della Baltica. Quello che mi piace è quella da Balin. È un tipo in gamba che fa tutto il tempo un po' di giorni fa. C'è tutta la campagna, c'è casa di campagna che è la Baltica. E ti dico che porto è un tipo in gamba. Oh, yeah. Dopo di gambi. Beh, tu sempre quello mio stai usando. Sì, sto parlando a voce bassa. Ci chiama in classe una voce bassa. Adesso guarda, mi vuoi scrivere batte. Adesso non mi metti in batte, batte. L'ho sentito che si sono avvicinato il microfono all'auricolare che mi stavo anche ascoltando. Perché già? Perché ora sento che c'è una cosa che me è uno che si va che manda qui. Chissà che se stavo pensando. Io, vabbè. Purtroppo sono cose che succedono anche quella nella guida, ma l'importante è sempre, così si dice, tirare avanti, è tutto là. Cavolo positivo, ricco il denario. Allora, se vogliamo diventare ricchi facciamo come quelli che ci hanno fregato. Ruggia, guarda, ma fa l'arcello Claudio, ruggia, vedo Marcello. Ah, io su eBay, guarda, ma allora sapevo che lì è una fregatura. Ma è fuori di lì che ci hanno fregato, ci hanno visto praticamente che stavamo, sia io che Claudio, stavamo sentendo una parata, non ce la siamo giudicato. E noi siamo andati un email scrivendo che lui non aveva capito quella e ci ha tirato, come ha detto che non si è stata fatta che cercavo io, dovevo raccontare di garanzia, che era nuovo, che mi davano lì il mail certificato, che mi pagava viaggio, più. Quindi noi l'abbiamo anche telefonato, ci ha risposto, ci ha detto che erano qui, che non aveva parato, nuovo, questa è quella. Vabbè, invece poi in definitiva. Che loro hanno da qualche magazzino che si è allagato di acqua, li hanno recuperati e li hanno praticamente messi in vendita, tutto lì. No, mai Dio, no, no. Roba da lì, preferisco andare qua e comprarmela nuovo. Aspetto, dico, se non la posso prendere questo mese, la prendo il prossimo mese e mi compro roba nuova. Anche perché con questa gente c'è poco da fidarsi. La gente disonesta, ci sai benissimo che c'è da tutte le parti. Io ti preferisco questa compagnia, non mi è mai successo nulla. E magari cosa ne sai, sono delle persone che si sono emessi in quel sito lì e avete avuto una fregatura. Adesso magari per colpa di questi ci piangono gli altri, capito perché succede così. Allora, io adesso mi si sottiva. Adesso fa nulla perché da uno si è incazzata. Ecco, già abbiamo fatto il 200, cosa vuoi prendere altri sedi? 1-3-400, ui ui ui, per carità. Lui ha guadagnato 200 grammi, 200 grammi, 200 grammi, uno gli altri che ho già fatto il poco medico. Sempre me la voglia. Ah no. Io. E quello è uno dei primi, chissà quanta gente c'è che li fa questi lavori. E poi ho letto il forum di me, e tutti si lamentavano, uno ha scritto qualcosa in gruppo, ma anche io. Io. Scoppata vinculata, così si dice. Sì, mi mendigini si basta. Miserabile, già. Quella gente è proprio miserabile, gente imbecille che fanno certe cose, che... è così purtroppo. Nella vita ci si trova anche di queste occasioni qua, caro Gianni, tutto lì. Cara Gava, riprendi Antoine. Sì, però vai a comprare casa lì, quando compro. Come la vedo bene. Ma Antonio, non è il discorso di comprare a Sassari, si può comprare anche in continente, no? Non è detto che uno compra il continente e prende le fregature, perché non tutti sono precisi nella vita, capito? Tutto lì. Quello che conta è l'onestà sempre della persona dove tu compri, tutto lì, capito? Chiaramente se tu di questi, scusando la frase, di questi fronti qua, che si mettono a fare questi biloni, poi il mercato praticamente va a quel paese, tutto lì. Sono la gente per sé che non è come noi quando intendiamo le cose, le vediamo come garantite. No, sono bravo, non va pazienza, l'imbarco che imbarchino. O funziona anche o no, tutto lì. Vabbè, io me ne passo in quelle ultime, ma andando, ci sentiamo al limite domani, va? state bene e ci sentiamo domani. Buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte. 7351 Telquerra, da parte mia, da parte anche della mia 50. Cava di positivo, è andar bene a me. Vediamo un po' se c'è l'appello ancora Mario. Avanti Mario. Sì, a scappa, dandone con quel tipo tutto, ma poi 144. Te la sentiamo domani, casomai ti telefono quando sto per arrivare. Se non sei a casa, me lo fai tu, così non faccio la sola vuoto. Kappa. Sì. E quindi già ti ha preparato tutto per pescare? Già mi sarebbe essere dormito mai. Sicuramente. Oioioi. Andar bene. Comunque quando hai preso quell'acciaio, Mario mi fai sapere. La limite lo fai la forma come il mio e poi per saldarlo già lo saldo io, capito? Poi per la rete ti lascio un problema, la rete si cucisce, si fa. Gamba. Vabbè, adesso non lo so se ce la faccio questa settimana oppure alla prossima la prendo e via, perché bisogna che anche io inizio a organizzare, perché mi pure marzo il tempo dovrebbe migliorare, c'è la primavera e così che si può approfittare a pescare, anche perché non ci sarà tutto quel freddo che c'è ora. Bel cappa Mario, e ancora c'è freddo Mario, se non migliora il tempo, addirittura questa settimana ha fatto tempo brutto, dice tutta la settimana, adesso bisogna vedere, con queste previsioni non se ne capisce più niente praticamente. E cappa, ma non è che stanno sbagliando, Ha detto che faceva freddo e ha fatto freddo, Non è che ha fatto caldo, Così che stanno andando sempre più precisi con queste previsioni. Quando dice che fa freddo, si è freddo e buh. Ma speriamo che adesso vada via, perché è tutto il 6 marzo, che marzo è marzo. Però se tutto va bene, come entra la primavera dovrebbe migliorare anche il tempo. Gappa, e così se mi faccio quello lì, sono a posto. E niente. Vabbè, così possiamo andare a pescare, anche perché mio figlio mi stava dicendo che lui forse sabato va a pescare col padre di quella ragazza che conosce. Cava. Ah, io domenica adesso vedo com'è, secondo me volevo provare a fare un salto, se si pescava qualcosa, adesso vediamo un po' le previsioni cosa dicono, per fine settimana ho sentito che diceva l'altro brutto, però già lo sai, canale 5 c'è poco da privare. Kappa, no, ma se fa bello ci vado anche io, magari non vado sabato sera con mio figlio, magari vado domenica, capito? Domenica mattina almeno fino alle 11, davvero, così se ci troviamo lì, arrivederci, facciamo una chiacchierata, kappa. E infatti Mario, e adesso vogliamo un po', se migliora il tempo, praticamente ci vado anche io. Tu il mio numero non ce l'hai, no? Cosa Mario, non ti ho copiato? Ho detto il mio numero, tu non ce l'hai. Ma l'avevi dato, però se non me lo ricordo se ce l'ho sull'altra carta. Guarda, finisce con 140, se te lo ricordi. Ma già non c'è problema per quello, già lo so, l'ho trovati Mario, capito? Scappa di positivo, non c'è problema. Ok. Cosa fai, ti curi chi? Non lo so, tu la stai facendo, a quel regista facendo? No, io sono già nanna. No, stavo chiedendo da te se ti curi, se sei stanco. No, mi lascio, mi fumo una sigaretta e poi al limite me la vado a nanna anche io. Capito, ma ci sono problemi per quello. E poi vediamo un po', quando migliora il tempo, praticamente ci possiamo fare anche cosiddetta una pescata in barca. Sì. Yeah. stavo guardando quelle normative, gli ho dato una lettura tutto lì praticamente. Non è che siano molto difficili queste cose che ci sono, diciamo che sono cose elementari. Guarda, quando fai positivo, sì, ma quei compiti lì, condensatori in parallelo, condensatori multipli, sottomultipli, resistenze in serie e parallelo, tutta quella roba lì, le so a memoria, so fare tutti i calcoli con la roba lì, corrente continua, corrente alternata, tutte queste cose, la legge degli Ohm. Si chiama Fusio Dacron della Miscia, 0,18, che praticamente trappa 16 kg. 16 kg? Sì, c'ha 16 kg strappo. Grappa, grappa. Allora è buona. È buona. Ti sto dicendo che non riesci a tagliarla neanche con la forbice, quella cosa lì. È grappa, grappa. No, perché ho visto un parametro lì a... al portatore, di fronte al porto, non fatto con quella cordicella lì, parametri piccolini. Ma te le fanno pagare una barca di sciuri quei parametri lì, Mario, capito? Te le fanno... E poi non vengono costruiti come vogliono fatti proprio praticamente, capito? Il parametro io li facevo e bisogna saperli fare i parametri. Perché se fai un parametro orato praticamente i bracciuli devi fare da 1,50 m, 1,40 m e le distanze praticamente da un amo all'altro vanno fatti 6 metri. Kappa, è buono, non lo so io. Io l'ho visto infatti lì, ho chiesto il prezzo, mi hanno detto 80 euro. No, lascia perdere, qua un buon parametro con una in acciaio, con lenza buona, con 50 euro lo fai, ma io ti parlo che fai un parametro da 250 anni tutti in acciaio inox. Ma 250 anni è vietato. Tutto è vietato, Mario, basta farlo in due volte. No, sono sino a... Allora, la legge dice che erano sino a 199, poi non lo so le normative se le hanno cambiate. Ma io se vado voglio andare in regola, capito? Non è che... Puoi andare in regola, se puoi andare in regola devi avere 199 anni in regola, capito? Tutto lì. Che non conviene mai buttarne uno da 199, conviene farne due, al limite ne fai due da 90 anni l'uno. E ne chiedi una da una parte e una dall'altra, capito? Infatti io volevo... È così, Mario, capito? Due da 90 e praticamente vanno benissimo. Sì, si può fare benissimo, non problem. Adesso sono in trattativa con un gommone, con un motore carredo, vediamo un po' e ci mettiamo d'accordo con questo tipo. Gappa. Oh. importante o c'è? Come l'importante? Non sono sempre in radio? Niente, la radio zero. Sì, perché sto parlando un po' piano, sono con l'omologato. Buonanotte, 7351 al QRA della batteria e buonanotte, KK. Ciao Claudio, ciao Giorgio, ciao Marcolino, ci sentiamo tutte alle prossime, MonQRT, MON144 quando lo fate, alle prossime, ciao ciao. Ciao Marco, ciao Giotto, 7351 anche la batteria e salutoni. Vabbè Mario, io me ne passo il 144, anche io sto sonno e ti saluto. Dai. Ciao Mario, ciao buon 734 anche da parte mia e saluto anche agli ascoltatori del CW2L, anche saluto ricordi a tutti qua. E QRT per me è causa 144, ce l'ascolto alle prossime. Ciao ciao, bye. Ciao ciao, fra. Buonanotte, poi 144 e saluto in casa. Ciao ciao, alle prossime. Ciao ciao, ce la riascolta. Ciao a tutti, buonanotte, QRT per me. Ciao ciao.